Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Stiamo attenti, andiamo lenti. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Sognatore, imprenditore e vagabondo. Un piccolo paese fuori dal mondo. Bella questa qua, possiamo leggerla. Oh. E poi ho scritto, perché stanotte ho scritto, io non ho dormito, ho scritto delle cose. Sì, sì. Che non vuole sottostare alla violenza e all'ingiustizia che il sistema sa creare. Non è detto che un piccolo paese non sia capace di grandi imprese. Ama il lavoro e non è schiavo del denaro. E non è a nessun servizio di un governo minchionaro. No, questo non si può dire perché è troppo. Se non torniamo per l'alba, Chiamate il presidente. Titolo? The Final Countdown. Artista? Il folklorista. Società sarebbe impossibile senza alleati. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori perché ci permettono di continuare a suonare e a danzare. Grazie. Cosa stiamo ascoltando, fratello? Fantasia. Artista? Entropia sonora. Eh? Entropia sonora. Vabbè. remember your first line. It's time to stop this useless relation. There's no reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with careless emotions. Your behavior has to stop. Questa settimana esce il CD che contiene tante tracce, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse. Ve lo ascoltate e improvvisate un po' di mossa. Sì, dai, dai, dai. Il CD contiene alcuni miei esperimenti ritmici e armonici, cardiotonici. Dai, dai, dai. Il titolo del CD è Some Experiments. Experiments. Dai, che famo notti? Finisce questa o gli devo andare di gomito? Gigi D'Agostino è un modo creativo. Riscalda gli ambienti di ogni casa con un tocco esclusivo. Come diceva una mia amica. sì. Terapia comportamentale del suono. Mi sembra buono. Giovedì prossimo, Promised Land.

transistor. Many faces meet each other. Senza temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. Titolo? Cielo. Artista? Federico Romanzi. Bello, bello, bello questo qua. Bello, mi piace. Bella questa, la trovo in vendita o me l'ho scaricata? L'ho perduto. Vabbè. M2O. Stiamo ascoltando, fratello. The only one. Artista. Noise of Love. Bello, bello. Assaggio l'aperitivo. Un momento creativo. D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... accelerata, va. Solamente con abiti approvati dai servizi speciali NIT. Yo DJ! Agente segreto in azione! Ogni mattina alle 9 e la domenica alle 8 su M2O! Sei pronto a conoscere gente nuova? Fai amicizia e trova l'anima gemella della tua città. Manda un SMS con scritto M2O al 48450. Entra nella community e chatta via SMS. M2O Cube, il locale virtuale di M2O. Per i nuovi entrati, in regalo 100 SMS di chat gratis per le ragazze e l'esclusiva suoneria di M2O Cube per i ragazzi. M2O Cube, un sacco di nuovi amici ti stanno già aspettando. Manda un SMS con scritto M2O al 48450. Costo di ogni SMS ricevuto 50 centesimi IVA inclusa. Per costo SMS di richiesta, info sugli operatori che offrono il servizio e privacy, vai su m2o.it. Non perdere il ritmo. È uscito disco. Valutazione dell'usato. Tag 051. Spirito di caparezza, noi ti invochiamo. Caparezza, il nuovo album. M2O. Musica allo stato puro. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li stai ascoltando. Lo sbaglio, dottor Dax. Versione quali 80. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie. Apparenza, solo un abbaglio, non c'è canzone senza uno sbaglio. Mi piace, questa qua è proprio forte, forte, molto forte, questa qua, dimmi un po' di chi è. A noi non interessa se il mondo corre, noi camminiamo molto lentamente, noi procediamo pensando. Pensando. Noi procediamo pensando. Anziano ci porta lontano. Lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è... Disco to disco, town across